Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Settimana che si apre ancora con tensioni sul fronte ucraino e anche l'Unione Europea dovrebbe annunciare in giornata le nuove sanzioni adottate di concerto con gli Stati Uniti contro Mosca. Bruxelles pare pronta ad accodarsi a Washington e annunciare nuove sanzioni contro Mosca per il ruolo assunto nella crisi ucraina. Mentre già da parte americana Barack Obama ha annunciato che queste colpiranno imprese, individui e anche i prodotti militari e tech della difesa russa. Tuttavia il fronte occidentale, formato da Stati Uniti e Europa, secondo il New York Times, sarebbe in serio disaccordo e Washington potrebbe prepararsi ad agire in modo indipendente bypassando gli europei. Così scrive il quotidiano, citando anonimi funzionari dell'amministrazione Obama. La vicenda ancora una volta mette alla luce la debolezza europea, priva di una linea comune in politica estera, condizionata da una parte dalla dipendenza energetica con il gigante russo, dall'altra dalle spinte filostatunitensi dei paesi più a est, come Polonia e Romania. In Ucraina l'Europa deve far sentire il suo peso, ha detto il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Gianni Pittella ieri a Bari. Ecco perché, ha aggiunto, diciamo che serve un'Europa politica, serve un ministro degli esteri europeo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi intanto è attesa una doppia firma a Bruxelles a sostegno di Kiev. In giornata saranno infatti siglati il memorandum di intesa per il gas dalla Slovacchia e anche quello per il piano europeo già annunciato di 1 miliardo di euro per l'assistenza macrofinanziaria. L'Italia sostiene pienamente le iniziative per la lotta all'evasione e all'ottimizzazione fiscale, intende farne un tema prioritario del suo semestre di presidenza europeo. Lo ha detto il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan a Parigi. Combattere questi fenomeni, ha aggiunto questa mattina, può portare a un diretto beneficio per i cittadini allargando la base imponibile e quindi portando in prospettiva una riduzione del fardello fiscale. Per questo è parte integrante, ha spiegato, della strategia di crescita europea. Faccia a faccia Radio 24, vi ricordo domani intanto tra i 4 candidati dei principali partiti europei in corsa per la presidenza della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz e Guy Verhofstadt si confronteranno presso il Parlamento europeo di Bruxelles. Organizzato da Euronet Plus, l'evento è l'unico dibattito a livello europeo nel quale i principali candidati parleranno al pubblico di 15 paesi affrontando i grandi temi di queste elezioni, dibattito in collegamento con 15 città per creare un network unico tra le stazioni radiofoniche di Euronet Plus, da Atene a Bruxelles, a Bucarest, a Budapest, da Lisbona a Parigi, a Sofia, a Varsavia, a Zagabria, domande ovviamente anche da noi da Milano. Il confronto lo potrete seguire live sul nostro sito www.radio24.it domani a partire dalle 14.30. In gioco c'è infatti anche la presidenza della Commissione europea, quando manca ormai meno di un mese per eleggere il nuovo Parlamento di Strasburgo. Qualche problema tecnico con il nostro servizio, parliamo anche di tecnologia europea, un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea, SolarJet, ha creato il primo carboturbo solare del mondo, a partire da acqua e anidride carbonica. In sostanza, per la prima volta i ricercatori sono riusciti a realizzare l'intera catena di produzione di cherosene rinnovabile. E finora si è prodotto un bicchiere di carboturbo in condizioni di laboratorio, ma i risultati fanno sperare che in futuro sia davvero possibile produrre idrocarburi liquidi con luce solare, acqua e CO2, un progetto finanziato con 2,2 milioni di euro provenienti dal 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Ma dicevamo, ormai meno di un mese per l'elezione del nuovo Parlamento di Strasburgo. Non è un semplice organo consultivo, ma un'aula a tutti gli effetti che può mostrare i muscoli e innescare un braccio di ferro con i ministri, modificare o bocciare le leggi, fare le pulci al bilancio e porre veti sugli accordi internazionali. Si presenta così il Parlamento europeo che i cittadini italiani sono chiamati a votare il prossimo 25 maggio. Dalla protezione dei consumatori, passando per i trasporti, dalle questioni economiche all'agricoltura, nel corso dell'ultima legislatura l'aula ha avuto l'ultima parola su 6 provvedimenti su 10. Non solo, ha bocciato senza appello l'accordo internazionale anticontraffazione e ha respinto l'intesa sullo scambio di informazioni con gli Stati Uniti per combattere il terrorismo, perché non conteneva sufficienti garanzie. Un Parlamento più forte, formato da 751 deputati, che dovranno saper fornire risposte concrete di fronte all'avanzata del fronte del no. Sullo sfondo resta il sogno di un'unica sede per dare il buon esempio in tempi di spending review. Una decisione invocata più volte dallo stesso Parlamento, che difficilmente vedrà la luce. Per abbandonare le sedi di Strasburgo e Lussemburgo, infatti, serve un accordo all'unanimità, che difficilmente i due paesi sono pronti a sottoscrivere. La vera sfida sarà dunque combattere l'assenteismo e l'euroscetticismo, per non indebolire un emiciclo che a fatica si sta conquistando la dignità di un vero Parlamento. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora un buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. L'Europa, vi ricordo, torna con Europa 24 Notte. Ancora, buon pomeriggio. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.